Intanto un caloroso benvenuto a tutti voi, a tutte le signore e signori che questa sera sono qui nella nostra Sala Zero del Trevi per una nuova iniziativa della Biblioteca Provinciale Claudio Augusta, però in collaborazione con AMPI, e qui abbiamo con noi Guido Margheri, e con il Centro per la Pace abbiamo con noi questa sera anche Mariana Montagnana, che saluto, è qui in sala. Questo perché promuovere la cultura, promuovere la lettura e ritornare ad avere un piacere di stare insieme è fondamentale, anche farlo insieme con le associazioni operanti e attive sul territorio e che con noi condividono tanti obiettivi. Voglio salutare anche il sindaco Caramaschi, che è qui con noi questa sera. Benvenuto. In qualità di scrittore, sì, ci teniamo al nostro sindaco che scrive ed è uscito anche recentemente con un nuovo libro, complimenti. E soprattutto grazie ai nostri ospiti, a Paolo Rumiz, che saluto e ringrazio di essere qui con noi, Floriana Gavazzi, che ci aiuterà a conoscere meglio l'autore e ci accompagnerà in questa serata e che già altre volte ci ha aiutato e ringrazio in questo frangente veramente con grande affetto. E, ecco, io non vorrei portare troppo tempo. Paolo Rumiz è un autore famosissimo, lo conoscete, nelle biblioteche ci sono i suoi libri e sono anche molto apprezzati. Conosce l'Europa, viaggia, conosce il mondo e soprattutto ieri ascoltavo una relazione dell'OCSE, della sezione trentina, e forse c'è una speranza per l'Europa ancora, perché ci sono i paesi in via di sviluppo, i paesi emergenti, che noi non ci stiamo accorgendo, almeno io non mi sono accorta di tutta questa espansione economica che hanno conosciuto in questi ultimi 10 anni, ma in realtà sono anche dei colossi di argilla, cioè il valore che noi portiamo avanti, la cultura che portiamo avanti come europei, anche se siamo sempre di meno e soprattutto un po' fragili in questo momento, forse saranno ancora la nostra speranza, la nostra forza. Ieri ci siamo lasciati in questa riunione dell'OCSE in questa maniera, speriamo di coltivarla, ma soprattutto di ascoltare dalle parole di Paolo Rumiz e con il suo canto per Europa un nuovo slancio e una nuova fiducia, ecco, nei confronti della nostra amata terra. Grazie, cedo subito la parola a voi e buon weekend. Grazie alla nostra padrona di casa, alla quale è il caso di fare anche gli auguri di buon compleanno, visto che compie gli anni proprio oggi. Ai ringraziamenti occorre aggiungere ovviamente il gruppo di insegnanti guidato da Franca Heller, che ci ha consentito di pensare questa iniziativa, e ovviamente gli assessorati alla cultura del Comune di Bolzano e della Provincia Autonoma di Bolzano, che in un qualche modo sostengono le nostre iniziative. No, ormai siamo diventati coppia fissa, noi e il Centro Pace del Comune di Bolzano, e Mariana Montagnana si nasconde sempre, ma in realtà se lei non ci fosse queste iniziative non sarebbero possibili. Grazie ovviamente a Paolo Rumiz per essere venuto fin qui, e grazie a Floriana Gavazzi per aver accettato il dialogo su un concetto che non era semplice, nel senso che il libro che ci è venuto in mente di presentare non è che lo abbiamo deciso per un caso, ma è perché in tempi così tristi, così difficili, così pieni di arretramenti di tutti i generi, occorrevano, e è il filo conduttore di tutta una serie di iniziative, di fare un ragionamento, un pensiero alto. Per non perdere troppo tempo, per spiegare anche il perché di questa iniziativa, userò le parole di un dialogo tra Edgar Morin e Mauro Ceruti sull'Europa, è del 2013, è di 10 anni fa, quindi prima di tante altre cose, e si conclude dicendo così: l'Europa è oggi alla periferia dell'età del ferro planetaria e non ne può uscire da sola. il pensiero e la cultura di noi europei, frutto della nostra provincializzazione, delle nostre prese di coscienza, ci appaiono deboli e minacciate da ogni parte. Ma possiamo sperare che questa debolezza racchiuda in sé la possibilità di una metamorfosi d'Europa e la possibilità dell'Europa di contribuire alla metamorfosi del mondo. Per comprendere che cosa sia una metamorfosi, pensiamo a come un bruco si trasforma in libellula. Il bruco si è chiuso nella crisalide. Tutto ad un tratto, i fagociti che dovrebbero difenderlo contro le aggressioni esterne aggrediscono lo stesso organismo. Distruggono i suoi stessi organi, risparmiando soltanto il sistema nervoso che mantiene l'identità dell'essere e controlla la sua metamorfosi. Tutto il resto dell'organismo è devastato. In questa implacabile distruzione si opera la costruzione di un essere che è radicalmente nuovo e che tuttavia è altrettanto radicalmente lo stesso. In questa agonia vi è una morte che è una nascita. Il nuovo essere vuole rompere la crisalide che è ormai divenuta prigione. Con terribili sforzi convulsivi tenta più volte di uscire. Ce la farà, ma un po' alla volta e con difficoltà. Le sue ali resteranno a lungo pesanti, incollate al corpo. Ma alla fine, quando nulla sembra ancora annunciarlo, la libellula sarà capace di spiccare il volo. A differenza dell'insetto, l'Europa non ha alcun programma preliminare che garantisca e regoli la sua trasformazione. Non è regolata da un sistema nervoso centrale di qualche sorta. E tuttavia, anche nel suo caso, ci sono volute devastazioni e distruzioni totali. Quella è la Seconda Guerra Mondiale, perché la sua metamorfosi abbia potuto avere inizio. La metamorfosi è incompiuta, non siamo né bruco né libellula. Lo sforzo decisivo è ancora da fare. Questo conta. Nella storia d'Europa il pensiero ha contato. Non è né idealista né utopico supporre che oggi il pensiero, quindi la cultura, possa aiutare l'emergenza di un'Europa politicamente unita e attiva nel mondo. Ma se il vero problema è di sapere se la cultura e l'educazione oggi siano all'altezza di svolgere questo compito, mai nella storia d'Europa le responsabilità del pensiero e della cultura sono state così tremende. Non ci rassegniamo ed è per questo che abbiamo costruito questo tipo di iniziative nella speranza di contribuire a reagire a questo stato di cose presenti che evidentemente non può non piacerci. La parola a Floriana Gavazzi e a Paolo Ruiz. Grazie. Benvenuti e benvenute anche da parte mia, siamo in tanti a essere appassionati di Paolo Rumiz e a essere appassionati d'Europa, a quanto pare. Purtroppo non si possono aggiungere altre sedie per motivi di sicurezza, mi dispiace tanto per chi è in piedi, spero che resisterete perché ne vale la pena. Paolo Rumiz è, direi, ossessionato dal tema dell'Europa da molto tempo, in un certo senso da sempre. Lui triestino, nato in una città di confine, come siamo noi abituati a pensare, anche lui erede dell'impero asburgico, come siamo noi. Il primo libro di cui ho trovato traccia in Wikipedia cercando le sue pubblicazioni si chiama Danubio, storia di una nuova Europa, ed è del 1990. Poi lui ha vinto nel 1993 il premio Hemingway per i suoi servizi dalla Bosnia-Erzegovina durante il conflitto nella ex Jugoslavia. Ancora Tracce di Europa nella sua vasta produzione. Trans-Europa Express del 2012, un viaggio attraverso l'Europa che si conclude a Odessa, guarda caso. E poi gli ultimi libri, Il filo infinito del 2019, che è un viaggio attraverso i monasteri benedettini europei, partendo da Norcia, la culla di San Benedetto e della regula Ora et Labora, che ha salvato l'Europa in tempi foschi, in secoli bui, come si usa dire. Il veliero sul tetto, nato durante il lockdown, il Covid, che è anche questo un viaggio, ma un viaggio nell'immaginazione e nella memoria, un viaggio da fermo, un viaggio chiuso dentro casa, nella soffitta di casa, se ho capito bene, sul tetto letteralmente. E poi quest'ultimo, Canto per Europa, che è un'opera bella tosta, impegnativa, sicuramente non di facile lettura, non vuole essere di facile lettura, mi diceva Rumiz, e quindi è un'opera, tra l'altro, che ha avuto anche una versione teatrale, un reading musicale che è arrivato a Bolzano nel 2021, e ha avuto una seconda edizione, di cui magari ci parlerà, ci dirà anche l'esigenza di questa seconda edizione, e adesso sta per essere tradotta in tedesco. Chiederei a Rumiz di raccontarci appunto questa sua passione e ossessione per l'Europa, come ha attraversato la sua produzione e perché è arrivata ad essere un canto, perché l'opera non è un romanzo, è direi un'epopea, un'opera epica. Volevo chiedere, posso alzarmi in piedi oppure esco dallo schermo? Ok. Allora, avendo una nonna che mi cantava Ninne Nanne Wiegenlied in tedesco, con parole che poi ho capito soltanto da grande, canzoni che arrivavano attraverso i sommergibilisti tedeschi che da Amburgo arrivavano nel Mediterraneo, facevano gasolio nel porto di Pola e da lì gli austro-ungarici portavano le loro canzoni fino nella nostra città. Avendo la lingua slava in casa, quindi avendo l'orecchio abituato alla lingua slava, non potevo che sentirmi europeo. Cioè, io, se mi chiedete di definirmi, certo la mia lingua è italiana, ma le fonti alle quali io attingo sono assolutamente plurime, quindi prima di tutto mi dichiaro europeo. E adesso diciamo, sono arrivato a questo libro che è stato il mio grande tormento, è stato un libro nato da il più faticoso di tutti, probabilmente anche il più difficile da leggere, il più difficile da penetrare perché è pieno di riferimenti mitologici, nasce da una constatazione che ho fatto proprio girando l'Europa e soprattutto conoscendo il cuore dell'Europa, tra Bruxelles e Strasburgo. E cioè mi sono trovato di fronte a una realtà nata da una meravigliosa utopia, forse il più grande progetto di pace dell'umanità, dopo mezzo secolo di massacri, che non era in grado di raccontare se stessa, cioè delegava la propria immagine a società di sondaggi anziché a poeti, a scrittori, a persone con una capacità visionaria. Non puoi costruire un sogno se ti basi su società di sondaggi che vendono l'Europa come se fosse un prodotto. Molto spesso io ho trovato che l'Europa è più amata, più desiderata da quelli che ci stanno fuori, specialmente quelli che arrivano via mare o quelli che attraversano la rotta balcanica o quelli che adesso arrivano da Ucraina o paesi più lontani. Quindi mi è tornato in mente, diciamo, l'immagine della prima delle migranti, che si chiamava appunto Europa, che era una ragazzina figlia di re che Giove ha rapito sulla battigia del mare del Libano all'alba dei tempi e l'ha portata per possederla dopo un lungo viaggio per mare fino alla prima grande isola dell'Occidente che è Creta. Quindi questa mi ha accompagnato molto spesso, l'immagine di questo toro con la ragazzina strattonata dal vento che in un mare pieno di delfini e di tritoni raggiunge quest'isola per compiere un sacro amplesso che io non riuscivo a capire perché doveva essere consumato dopo tutta quella fatica, quando tutto poteva essere facilmente realizzato sulla spiaggia del Libano. Cosa voleva dire tutto questo? Questa immagine dormiente in me si è risvegliata fortemente quando l'Europa ha cominciato a tremare sotto l'urto prima della guerra dei Balcani, poi della secessione britannica e quasi contemporaneamente con l'arrivo in massa dell'onda migratoria. Lì ho cominciato proprio a interrogarmi chi siamo, da dove veniamo, qual è la direzione verso la quale andiamo e non trovavo risposte sufficienti. I miei nipotini, che erano ancora piccoli, sapevano di questa mia passione per l'Europa e mi chiedevano continuamente, nonno, che cos'è l'Europa? Io pian piano riuscivo a delineare un panorama dicendo l'Europa in fondo non ha confine con l'Oriente, nessun geografo ha mai saputo qual è il vero confine tra Asia ed Europa, l'Europa non ha confini a Oriente, ma l'unico vero confine è quello dell'Oceano Atlantico. Ma sentivo fortemente il fatto che non si potesse prescindere dal Mediterraneo. E poi sono successe delle cose. Nel gennaio del 2016 mi sono trovato in Puglia per motivi che avevano niente a che fare con questa mia ricerca e ho saputo, mentre mi trovavo a Brindisi, di un naufragio appunto di migranti al largo di Santa Maria di Leuca, che è il punto estremo del tacco d'Italia, dove sotto un grande faro le correnti dell'Adriatico e dell'Ello Ionio si toccano. E lì era avvenuto un grande naufragio e sono subito corso a vedere, anche se avevo già visto queste cose attraverso la televisione, ma vederle dal vero è tutta un'altra cosa, perché senti, se non altro, cioè, vedi, tocchi, annusi, è una percezione corporea molto più forte. E lì, quando già annottava, sono arrivato davanti alla banchina dove era attraccata una motovedetta della Capitaneria di Porto che aveva deposto sulla banchina un corpo umano chiuso in un sacco bianco, accanto al quale c'era il palombaro che quel corpo aveva recuperato, un uomo gigantesco che piangeva calde lacrime. E poi solo dopo ho saputo che quel corpo conteneva una etiope incinta che era stata buttata in mare come altre dagli stessi scafisti. Ecco, davanti a quell'immagine, questo gigante in lacrime e questo corpo anonimo, mi sono trovato di fronte, nelle mie notti questa immagine ritornava sempre e questo corpo chiedeva di avere una storia, un volto e un nome. E questa cosa mi ha tormentato per mesi, fino a quando nell'estate dello stesso anno del 2016, mentre mi trovavo a Porto Empedocle per esplorare i luoghi di Andrea Camilleri, che ovviamente leggo in modo compulsivo quando non posso dormire, vengo avvertito che sta arrivando una grande nave di soccorso piena di migranti che sarebbero sbarcati. Quindi vado ad assistere a questo sbarco e vedo uscire alcune centinaia di fantasmi malfermi sulle gambe, non sapete cosa vuol dire stare per un mese in cerca di un porto, anche se è piena estate, vedo uscire questi fantasmi, tutti con addosso un giubbotto giallo di soccorso, tra loro pochissime donne. Queste donne vengono invitate dalla polizia a sedersi a parte, sempre sulla banchina, in una zona che era delineata da un grande telo blu. Ecco, queste donne si sono messe spontaneamente in cerchio, come per una specie di celebrazione rituale di questo arrivo e del distacco definitivo dalla loro patria d'origine, e lì ho visto disegnarsi davanti ai miei occhi la bandiera dell'Unione Europea attraverso i corpi femminili di una quindicina di creature. E lì mi sono detto, ma quale può essere la dimostrazione più forte che noi veniamo tutti da lontano? Sicuramente non dall'Atlantico, come dicevo ai miei nipotini. Veniamo molto spesso da Oriente e da Sud. E erano siriane queste donne, e a un certo punto una di loro, non potrò mai dimenticare il suo volto, ed è descritto all'interno del libro che qui vi presento stasera, una di loro si mise a cantare, una nenia del suo paese, la Siria, che era un canto che racchiudeva insieme la nostalgia lacerante di ciò che avevano lasciato e contemporaneamente la speranza e la determinazione molto femminile di una donna che ricominciava da zero. Io ho avuto esperienza di migranti e so che nel adattarsi a una patria nuova, la donna è infinitamente più veloce dell'uomo, cioè nettamente superiore, lì si vede la differenza. E a quel punto l'immagine di Europa a cavallo del toro che attraversa il Mediterraneo mi tornò fatalmente, e lì cominciai a ragionare su tutti i messaggi che quell'immagine mitica, ripetuta da infiniti pittori in mosaici fino all'età contemporanea, mi diceva un sacco di cose che non avevo completamente valutato. La prima è che Europa è femmina e che per capire questo bisogna toglierle l'articolo. Dovremmo imparare a non dire più l'Europa, ma come fanno i tedeschi, dire Europa e basta, perché così è molto più trasparente questa nostra origine femminile. Poi è una donna che viene da Oriente, è un'asiatica, perché Europa, pur con questo nome nostro, è in realtà la figlia di un re dell'Asia, di un re fenicio. Ci dice che è una creatura, ma nello stesso tempo una realtà territoriale, perché la metafora è chiara, no? La donna rappresenta il luogo, e questa capostipite mitica di una stirpe, certamente non biologica ma mitologica, è amata dagli dèi, quindi noi viviamo in una terra speciale, se no il vecchio Giove non si sarebbe infoiato di questa ragazzina che raccoglieva fiori sulla spiaggia del Libano. Ma poi soprattutto ci dice che noi non esisteremmo senza il Mediterraneo, perché appunto Giove poteva farsi la ragazza sulla spiaggia del Libano invece di farsi tutto questo viaggio. E lo ha fatto, e questo è il quinto elemento, indicando una direzione maestra delle nostre popolazioni, che sono quasi sempre venute da quella direzione e hanno dovuto affrontare pericoli, viaggi lunghi e distanze, eccetera, pur di arrivare in questa terra bramata, questa terra che ha indubbiamente, per chiunque abbia viaggiato il mondo, una bellezza particolare. Ecco, quindi non è finita, perché all'inizio dell'anno, nell'aprile dell'anno successivo, il 2017, quando l'Inghilterra manifesta ancora più decisamente la sua intenzione di andare verso la rottura con Europa, io vengo chiamato al telefono da un caro amico triestino che è un grandissimo skipper, ma contemporaneamente un grande conoscitore della mitologia greca e latina, che in quel momento insegnava in un college inglese, che mi chiama e mi dice: Paolo, dobbiamo rifare il viaggio di Europa per spiegare agli inglesi da che cosa si staccano. E io in quel momento, per puro caso, mi trovavo già in Libano, sempre a causa di Europa, perché forse alcuni di voi sanno che ho collaborato per anni con un'orchestra europea giovanile, un'orchestra sinfonica, e proprio nel nome di Europa eravamo andati in Libano a cercare degli orchestrali libanesi da aggiungere all'orchestra europea, per dire alla gente che noi venivamo anche da lì, che quindi quella è la nostra gente, fa parte delle origini giudaico-cristiane, c'è poco da fare, no? Quelli parlano la stessa lingua che parlava Gesù Cristo. E quindi questa coincidenza, questo ha scatenato in me la necessità, l'urgenza di fare questo viaggio rapidissimamente, e così siamo partiti in barca, abbiamo fatto un viaggio di Europa verso Occidente, un po' come capitava, perché era una direzione mitologica, non eravamo obbligati a andare proprio a Creta, sotto il platano di Gortina, dove era avvenuto il Sacro Amplesso, ma avevamo viaggiato verso Occidente incontrando in tutti i porti persone che di fronte alla nostra barca, che aveva più di 100 anni, di fronte alla ciurma, che era una ciurma fatta di persone di diverse nazioni, faceva sì che si scatenasse ogni volta un dibattito sulle dove andate, cosa fate, cerchiamo Europa, ma l'Europa dov'è? Dove sta l'Europa in questo momento? L'Europa resisterà? I greci, non vi dico che cosa dicevano dopo aver preso la bastonata dalla Bundesbank, per cui quel viaggio ha creato in me il bisogno, l'urgenza di raccontare questa storia non tanto come un viaggio reale, ma come un viaggio mitologico. Per chi di voi ha già letto il libro, credo che questi racconti siano davvero illuminanti, perché gettano un faro sull'origine, sulla genesi, sia dell'idea sia anche poi del racconto. Mi colpisce soprattutto il fatto che questo viaggio, che è il tema del libro, c'è stato davvero. Ecco, io questo non lo sapevo quando ho letto il libro. Mi colpiscono naturalmente le immagini della ragazza incinta etiope a Brindisi, quello della ragazza siriana che canta a Porto Empedocle, e ritrovo una serie di immagini e di suggestioni che illuminano e impreziosiscono il libro. In parte ha già anticipato la mia seconda domanda, che si riferiva ai personaggi. E Evropa, che poi diventa Europa, e magari ci spiega perché, è la ragazza siriana che viene presa a bordo della barca, del barcone, da parte di questi 4 argonauti. Una ragazza siriana che scappa da indicibili violenze e sofferenze. I 4 la prendono a bordo, consapevoli che è una clandestina, in qualche modo diventano clandestini anche loro, perché per portarla in Occidente devono evitare i porti, i documenti, i controlli, le dogane, e questo barcone viaggia attraverso tutto il Mediterraneo, affrontando tempeste, avventure di ogni tipo, e in qualche modo sembra dire, attraverso l'identificazione con gli argonauti, anche loro stanno cercando qualcosa, no? Non cercano il vello d'oro, cercano il nome di Europa. Un continente che si trova, lo dice l'inizio del libro, in queste condizioni. E mi alzo anch'io per leggere poche righe. Il continente antico agonizzava. Aveva attraversato l'abominio, ma poi ne aveva perso la memoria. Dimenticati il fango, le trincee, i carri di bestiame per gli umani, i forni crematori, i gas, le bombe. Dimenticate le fosse comuni e le folle oceaniche inneggianti a tribuni forieri di rovina. Gli sguardi della gente erano spenti. E c'era chi riesumava le rune del malaugurio, cercava nemici e schiavi da sfruttare, come ai tempi delle colonie. Petros, il comandante della nave, si chiedeva dove era andata la luce negli occhi, l'esultanza della liberazione e l'euforia per il crollo dei muri. Questo continente agonizzante, che ha dimenticato il suo passato, è in cerca di un nome. Chiedo quindi di presentare un po' l'equipaggio e il senso del loro viaggio. Un po' come era avvenuto nella realtà, ho inventato un equipaggio di 4 marinai, diciamo, ricchi di tempo libero, quindi persone di una certa età, per non dire vecchi come me, che decidono di andare nel Mediterraneo alla ricerca del nome perduto del loro continente, che ormai veniva, che aveva perso talmente il senso di sé, della sua funzione nel mondo, da dimenticare il proprio nome. La parola Europa era sparita dall'orizzonte linguistico del continente, che pure aveva avuto quel nome. E quindi vanno alla ricerca nel Mediterraneo di una risposta a questo grande vuoto l'Europa era definita attraverso giri di parole tipo la terra del tramonto, il giardino delle Esperidi, eccetera. Ma si ricordavano che esisteva un unico nome e partono alla ricerca. Sono quattro personaggi a tutto tondo, uno il narratore, che peraltro è molto defilato, in cui ovviamente in più mi riconosco, che è un dalmata di lingua italiana, quindi anche lui misto un po', tutta gente di frontiera. Poi un ebreo francese, un turco di madre tedesca, che trae gli occhi azzurri dal padre circasso e non dalla madre tedesca, quindi è tutto, no, tutto fuori dalla banalità, più il comandante, che è chiaramente, rispecchia in pieno quello che è l'amico mio skipper, che mi aveva chiamato dall'Inghilterra per fare questo viaggio, che qui viene trasfigurato in un greco che aveva insegnato appunto greco e latino in un college inglese, e che pilotava ora nel Mediterraneo una barca centenaria che aveva vissuto la prima e la seconda guerra mondiale, conosciuto le onde dell'Atlantico e del mare del Nord, e poi era andata a consumare la sua vecchiaia nel mare Mediterraneo. Questi quattro si trovano improvvisamente di fronte a questa ragazza che fugge da un bordello nel quale era stata schiavizzata, dove aveva subito tutte le possibili servizi, un bordello libanese appunto a Tiro, che è il luogo del rapimento mitologico. La vedono chiedere con determinazione, che gli spiazza completamente, la necessità di partire, e loro si sguardano un attimo, ma capiscono che non è una richiesta ma è un ordine quello che gli dà questa donna così, così timida apparentemente, ma in realtà fortissima. In lei chiaramente io vedevo quella migrante di cui vi ho parlato. E partono e diventano a loro volta clandestini, nel senso che per non dichiarare la ragazza alle polizie di frontiera viaggiano a zig zag, evitando i luoghi dove doversi dichiarare, evitando le capitanerie e i luoghi di questo tipo, non vogliono avere a che fare con le scartoffie, e così accade questo. Il nome della barca è Moia. È un nome reale, la barca la potete trovare, se digitate su Google Moia barca a vela la troverete. E la barca li porta in una rotta a zig zag tra Asia ed Europa, e Moia sbeffeggiava le frontiere, si divertiva a tessere la rotta sul filo dello strappo tra due mondi. Rotta a zig zag, un rammendo perfetto, l'est e il ponente, saldati dal lago di un bonpresso che un sarto timoniere manovrava, cucendo con i bordi il tessuto del mare, mentre il vento profumato di viola sospingeva il dodecaneso come una flotta di zattere in balia degli elementi. Quindi c'è l'immagine di questa barca che cerca di ricucire con ago e filo lo strappo assolutamente artificiale che esiste, specialmente nel mare Egeo, tra il mondo europeo e il mondo asiatico, perché in realtà tutti lo sanno, quelle isole erano state abitate per secoli sia da turchi sia da greci, ma poi la semplificazione nazionale e gli ingegneri delle deportazioni hanno costruito uno scambio di popolazioni che in questa terra si conosce benissimo, e fatto sì che milioni di infelici si trovassero a stare nelle case lasciate da altri infelici che dovevano dormire nelle loro case, a loro volta abbandonate. Ecco, quindi la nave viaggia in un mare che è il mare mitologico di Omero, ma nello stesso tempo è il mare della modernità, il mare del riscaldamento climatico, il mare del turismo di massa, il mare delle guerre. E quindi la ragazza con questi quattro argonauti a bordo affronta tutte queste difficoltà prima di approdare alla terraferma, che nel mio caso è la Calabria, per un motivo anche. Primo, perché avevo una voglia pazza di far finire la storia dopo il passaggio tra Scilla e Cariddi, quindi lo stretto di Messina, che ora vorrebbero sverginare con un ponte. Sono cose che nessun Dio consentirà, secondo me. Ma anche perché in quel luogo esiste una toponomastica che ricorda moltissimo il toro. Gioia Tauro, poi le montagne dei Vituli, cioè dei vitelli, da cui viene la parola Italia. E lì la ragazza, dopo essere stata ingravidata in sogno dal re degli dei, rimanendo vergine, è una storia che ricalca in pieno quello della Madonna, che veniva da quelle stesse terre, guarda un po', di fronte alla sua gravidanza e di fronte alla sua gioia nel vedere la terraferma finalmente profilarsi all'orizzonte, i quattro argonauti dicono: ma cosa aspettiamo ancora a chiamare la nostra terra col nome di questa donna che mostra di amarla più di quanto la amiamo noi, che invece ne siamo stanchi, che ci portiamo dietro tutta la nausea della mala politica, delle guerre, di tutto, cioè noi siamo stanchi dell'Europa, lei no, perché lei ci dice: oh ragazzi, voi avete dimenticato che cos'è la guerra, io lo so e quindi so dove sto andando, io voglio scodellare mio figlio in un luogo dove non ci sia il fango e dove i corvi non mangino gli occhi dei morti per la strada. Quindi gli argonauti si ritrovano davanti a questa constatazione così ovvia, dalla quale noi ci siamo dimenticati, e capiscono che hanno dovuto imparare il senso della loro terra da una donna che non la conosce, ma la sogna, e quindi porta con sé il sogno europeo, mentre noi ci affidiamo ai sondaggi. Ecco, questo è il... Franca Heller mi diceva che quando lei insegna la lingua italiana o tedesca, non lo so, a questi nuovi arrivati, dice che la soddisfazione che ha, la voglia di imparare che trova in questi ragazzi e ragazze è sicuramente superiore a quella dei nostri. Ragazza, Europa, ma voi la guerra, voi la conoscete? Si rivolge all'equipaggio. Non avete un'idea di quanto in fretta la vita della gente può cambiare. Se non sapete questo, io vi avverto, non capirete mai cos'è la pace. Così ci disse e mostrò sulla schiena dei segni di frustate e bruciature di sigaretta. Ci aveva messi al muro la ragazza. Nessuno se ne va di casa, disse, se la casa non gli urla di andare via. E così dice Petros, riflettendo sull'esperienza di Europa. Ora capisco, amici, questa terra è il miraggio di chi non la possiede, di chi traversa il mare con fatica. Forse il sogno di chi viene respinto, non di chi l'abita sazio da secoli. Da oggi sia chiamata come lei. Questo solo a sottolineare quanto Paolo Rumiz ci ha appena detto. Paolo Rumiz mi ha suggerito una delle domande e voglio fargliela adesso. Lui diceva, visto che tra gli organizzatori di questa serata c'è anche l'ANPI, io vorrei parlare di questo libro come di una forma di resistenza. E gli chiedo di illustrarci questa intuizione. Allora, intanto è un libro in versi, non spaventatevi, ma è un libro in versi e in endecasillabi, con qualche piccolo errore che, come vedete qui, sto già correggendo, perché non è un libro, questo è un tormento. Sì, cioè, diciamo, è forse l'unico libro in cui, che sento di dover, che voglio che duri in qualche modo. È un libro in versi che già è una forma di resistenza alla banalizzazione della lingua. È un libro pieno di riferimenti storici, mitologici, geografici, marinareschi, che richiedono un minimo di indagine supplementare in chi legge, però il verso vi aiuta con la sua musicalità a dire ok, non ho capito, ma mi piace. Sì, è così, cioè il verso ha questo, no? Quindi anche se non si capisce tutto, si va oltre e soprattutto il testo va letto ad alta voce, perché se lo leggete in silenzio non sentirete risuonare il diaframma e le vostre corde vocali. Io sono sempre dell'idea che i versi sono una delle più grandi terapie che l'uomo abbia inventato. Se fossi un medico di fronte a un esaurimento nervoso direi vabbè, prenditi un Valium, ma ogni sera leggiti un centinaio di versi della Divina Commedia, anche se non li capirai, ma interiorizza il ritmo, vi giuro che fa bene. Ma la resistenza più grossa secondo me è contro la banalizzazione del pensiero. Noi in questo momento stiamo assistendo a siamo completamente vittima di una visione manichea di quanto sta accadendo alle nostre frontiere orientali. Viviamo un momento in cui non riusciamo più a distinguere tra Tolstoi e Putin. Un momento in cui noi impediamo di partecipare a dibattiti televisivi dei russi dissenzienti, che dovremmo avere interesse a tirare dalla nostra parte proprio perché il grande nemico si tolga dai piedi. Ma non lo facciamo per una forma di cretinismo, di imbecillità politica che in questo momento ci pervade. Ora, perché io posso capire che è giusto che il popolo ucraino non faccia distinzioni, ma noi no. Cioè noi abbiamo il dovere, in quanto europei, figli di una terra plurima, di ricordare che, ok, si entra in Europa, ma con il rispetto delle minoranze. E parlo anche qui nel luogo giusto, no? Quindi è molto importante che noi ci ricordiamo da dove veniamo. Europa per me è Eschilo, il greco Eschilo, tragediografo, che dice, lui greco vincitore di Salamina, che dice, che ricorda in una frase, i persiani. Sì, che nei persiani scrive i vincitori si salveranno solo se rispetteranno gli dèi e i templi dei vinti. Riflettiamo, questa è Europa per me. Europa è Euripide, che nelle Troiane, lui greco, mostra tutti gli orrori commessi dai greci che strappano il piccolo Astianatte, già orfano di padre, dalle braccia della madre e lo gettano giù dalle mura per evitare che vendichi poi il padre. Europa è Alessandro Magno, che conquista l'Oriente, sconfigge l'impero d'Oriente, ma alla fine esorta i suoi soldati a sposare le persiane, in quanto figlie di una grande civiltà. Non c'è questa divisione del mondo tra bianco e nero. Questo è il Mediterraneo, questa capacità di distinzione, questo rifiuto della banalizzazione. Europa è la radice giudaico-cristiana. La traduzione della Bibbia della traduzione dei 70 della Bibbia, che consente al cristianesimo, sulle ali della lingua greca, che ha già conquistato il mondo fino all'Afghanistan e oltre la Cina, i Buddha di Bamiyan, sono fatti da greco-romani, non so quanti di voi lo sanno, quanto in là era andato il mondo greco e quanto in là e quanto velocemente arriva il cristianesimo grazie al greco. Ma il greco che cos'è? Come si spiega la forza del greco? Se non con il fatto che è un mondo pelagico di isole che hanno ciascuna la sua indipendenza, la sua diversità, esattamente come l'Europa vorrebbe essere, senza centralismi, e che captano tutti gli influssi più diversi dall'Europa, dall'Asia e dall'Africa, lì in mezzo. Da cosa viene la forza del greco se non dalla capacità di sintetizzare tutto questo e di cogliere la complessità del mondo? Noi oggi, con tutti i nostri strumenti, con tutta la nostra, con tutte le nostre reti, abbiamo completamente perso la visione delle cose. Siamo privi di visionari, siamo intasati di analisti che popolano probabilmente gli uffici studi dei primi ministri europei, non parliamo degli americani o di altri, ma non abbiamo visionari capaci di dire: ecco, l'insieme delle cose è questo. E noi in questo momento stiamo negando le radici stesse dell'Europa. E tutto è cominciato nella guerra dei Balcani, nel 1992-93, quando l'Europa, spinta dall'America, ha accettato l'idea che la pace nei Balcani potesse avvenire solo sulla separazione dei diversi, non sulla convivenza. Facendo così ha ottenuto la pace, una pace molto effimera, lasciatemi dire, ma ha picconato se stessa, quindi ha demolito alla radice quello che è il fondamento della convivenza su cui dovrebbe essere costruita l'Europa. Io non posso dimenticare che poi è un mondo che una volta esisteva alle frontiere dell'Unione Europea, Bielorussia, Ucraina, eccetera, erano mondi dove si mescolavano spontaneamente il mondo ebraico, il mondo tedesco, il mondo dello Yiddish, no? Il mondo slavo, si mescolavano e producevano qualcosa di straordinario, no? I più grandi poeti austriaci sono arrivati dalle frontiere orientali dell'impero, proprio perché erano esposti alla contaminazione. Quasi mai erano di Vienna o di Innsbruck o di Graz o di Salisburgo. Venivano da queste terre estreme che captavano la contaminazione produttiva, la coabitazione tra le etnie. Mi ricordo ancora negli anni, diciamo, subito dopo la guerra, il mio grande modello, il reporter polacco Ryszard Kapuściński, mi diceva che nella sua città, Pinsk, era normale che il rabbino, l'imam e il pope andassero a ubriacarsi assieme. Era normale, ecco. Questo era l'Europa. Oggi non è più questo, perché la follia nazionalistica ha diviso le persone secondo etnia, secondo lingua, eccetera. E tutto questo, io non vorrei che noi, tirandoci dietro questi paesi ex comunisti, costruiti sulla monoliticità etnica, inquinassero l'idea stessa di Europa, e credo che stia già accadendo. La stia inquinando con un'idea arcaica, che non è più quella che dice: noi siamo noi che apparteniamo alla terra, non alla terra che appartiene a noi. E la nazione è il luogo non dove sono nati gli antenati, ma il luogo che viene adottato da chi arriva e sceglie di seguire le regole del luogo. E qui ovviamente mi rifaccio a San Benedetto, che è il grande esempio di un uomo che in un momento di disastro dopo la caduta dell'impero romano riesce a ricostruire dei presidi di civiltà in Europa, legandoli tra di loro con una rete che è fantastica, ma soprattutto offrendo agli europei l'idea di una regola all'interno della quale è necessario convivere. Qui chiudo, ma per me l'immagine più bella del monastero benedettino, sono molto vicino al Benedetto, questo è un braccialetto che mi è stato regalato da un'amica francese, pazza per San Benedetto, me lo porto sempre quando vado in viaggio, la figura più bella del mondo benedettino è il portinaio, quello che quando tu entri nel monastero ti guarda con aria severa e un po' ironica, ti mette in mano le lenzuola, le coperte, il cuscino, ti dice il numero della stanza dove devi andare a dormire, ma contemporaneamente ti fa capire con uno sguardo che lì dentro ci sono delle regole e quelle regole devi seguire. Quindi un'idea all'interno del perimetro, all'interno del santo perimetro, puoi venire, ma devi seguire delle regole. Ed è quello che la politica dell'immigrazione oggi dovrebbe dire. Scusate se salto di palo in frasca, ma è tutto così legato che mi è impossibile uscire. Sento molto vero questo fatto che siamo intasati di analisti e privi di visionari, di quanto c'è bisogno di visionari. Verso gli analisti ci sono parole molto dure nel libro, ve ne leggo alcune. Con una mano, in palazzi di vetro, firmavano principi universali. Con l'altra, benedivano le stragi tirando linee di filo spinato. «Vedrai che pagheranno tutto questo», dicevano le onde alla ragazza. «Sì, pagheranno per questo cimitero di ossa che riposa negli abissi». Parole molto dure verso le nostre politiche nei confronti dei migranti, così prive di visioni e di visione in un continente che sta morendo per calo demografico e per invecchiamento. Il libro però è molto visionario, è proprio una forma di resistenza e lo è anche perché è stato scritto di notte e questo mi colpisce molto, per cui gli chiedo di raccontarci un po' le modalità, diciamo, della genesi notturna di questo libro. È un libro tra i cui protagonisti c'è la luna, per esempio. Questo mi piace molto perché la luna è il simbolo del femminile, è la parte notturna, nascosta, delle cose, ma è la parte da cui nasce e si feconda, no? La luce del sole non avrebbe senso senza la luna. Poi arriviamo a parlare proprio del femminile, che è uno dei fili di questo libro, ma prima mi interessa questa scrittura notturna. Allora, qui già si pone un problema nella traduzione tedesca, perché in tedesco la luna è maschile. E questo ha messo in grave difficoltà la mia casa editrice Bolzanina, Folio, tanto è vero che ho dovuto passare, non solo per questo motivo, ma anche per una certa resistenza del tedesco alle metafore e alle visioni imprecise, molto troppo latine, no? Ho dovuto passare ore e ore al telefono con la mia bravissima traduttrice, che è qui nata in Innertal, Maria Brunner, che ora è in Mediterraneo, in un'isola del profondo sud. Prende l'ispirazione. Sì. Dunque, è un libro nato di notte per un motivo, al di là del fatto che Europa contiene in sé immagini di buio, perché viene da Erebu, antica lingua mesopotamica, che significa là dove tramonta, cioè non dove sorge. Asia vuol dire dove sorge, Erebu dove tramonta, da cui l'Erebo dei greci, che è l'altro mondo, no? Però può voler dire, è anche un'immagine lunare che viene da Evri Ops, che vuol dire faccia larga come di luna piena. E questo è un libro lunare, è un libro che non è stato scritto di giorno, per un motivo fisiologico. Noi vecchi soffriamo di insonnie, ci svegliamo molto spesso nel cuore della notte. Succede che quando sei nella fase di effervescenza creativa, e in particolare quando devi scrivere una cosa in versi, che richiede una musicalità che il frastuono del quotidiano, della luce piena, fa di tutto per spezzare, la notte, il silenzio e il fatto di trovarsi nel dormiveglia in bilico tra il sonno e la veglia ti libera dalla parte razionale di te e ti fa quagliare delle immagini in modo armonico, in un modo che durante il giorno non è possibile. Per esempio, io dovevo rendere il fatto che dopo una notte memorabile nell'isola di Kos, gli Argonauti e Europa vedono sorgere un sole rosso, molto rosso, quasi di sangue, da Bodrum, l'antica Alicarnasso. E a me alle 3:30 di notte mi è venuto il verso «E l'alba sanguinò su Alicarnasso». È difficile che questa cosa ti venga durante il giorno. E a me capita questo, la mia compagna, da poco mia moglie, lo sa perché dormendo con me conosce queste mie bioritmi demenziali. Per cui succede questo, provate a immaginare, mi sveglio, mi becca il verso, so che il giorno dopo, la mattina, non lo ricorderò, perché ciò che cogli nella notte non è difficilmente, lo dimentichi se ci dormi sopra. Allora bisogna scriverlo, per cui io ho un taccuino sempre sul comodino, lo scrivo per poter non accendere la luce, ho una lampadina frontale con la quale, quelle da montagna con le quali scrivo, poi zitto zitto mi rimetto a dormire. Il problema è che appena decido di non pensarci più, un altro verso arriva. Perché la cosa strana della creatività è che non sei tu che cerchi le frasi, ma le frasi vengono da sole proprio quando non le cerchi. Perché in qualche modo la mente ti restituisce ciò che hai macinato durante il giorno, lo ha ruminato durante il sonno e te lo restituisce in forma migliore durante la notte. Per cui a quel punto dovrei scrivere un secondo verso. Riaccendo la luce, la signora Mugugna. Allora spengo la luce, vado in cucina. Pigiama o mutande, non importa, vado in cucina dove a occhi chiusi comincio a scrivere quello che mi viene fuori. E questa cosa può durare anche 2 o 3 ore, dopodiché finalmente crollo e mi sveglio. Poi ho bisogno della pennica pomeridiana, se no non si possono scrivere libri. Ecco, quindi diciamo è un libro notturno, non solo perché Europa è una figura notturna che rappresenta il luogo dove tramonta il sole o la luna, non si sa, ma anche perché esiste questo fatto che io ho verificato già durante la scrittura della Cotogna di Istanbul, che è anche stato scritto in versi, e lì viene spiegato anche, in una parte del libro, viene spiegato che a quell'ora della notte, fra le 3 e le 5, i medici ve lo possono confermare, il fegato che produce bile produce proprio l'essenza di ciò che crea la nostra emotività. Conoscete quanto è brutta l'ansia a quell'ora, ma allo stesso modo può essere favoloso l'immaginazione che ci possiede a quell'ora. Quindi è l'ora dell'innamoramento, della nostalgia, del ritorno di vecchie cose, il momento in cui si creano cortocircuiti inediti tra cose vissute e cose anche appena viste. Ecco, quindi questa è un po' la fisiologia del racconto in versi, e il verso è, in questo è diverso dalla prosa, perché scorre esattamente come un fiume, e quindi tu hai questo fiume dentro, e in qualsiasi momento della giornata, qualsiasi cosa tu capti nei racconti altrui, nell'immagine di un temporale, che ne so, questa cosa confluisce come un piccolo torrente secondario, confluisce nel fiume e viene inglobato dal fiume. Per cui tante cose che io ho scritto qui, come nella Cotogna di Istanbul, sono state rubate a situazioni anche pubbliche o da una domanda di una persona, cioè vivi in uno stato di fibrillazione, di attenzione, di allerta continuo, che fa sì che tante cose che altrimenti andrebbero perse tu le capti e le fai confluire in modo armonico dentro il fiume del racconto. Spero che sia capito un po'. Grazie per averci svelato la genesi notturna dei versi. E grazie a questa lucetta che c'è, che ha partorito versi così poetici. E dicevo prima, questo libro è anche un inno alla grandezza del femminile, un omaggio al femminile. Questa ragazza di una bellezza misteriosa ipnotizza l'equipaggio. Cambia, letteralmente cambia la vita e lo sguardo di ciascuno dei quattro argonauti, fino a che misteriosamente la ragazza rimane incinta, anche lei posseduta da Giove Toro, in realtà probabilmente durante un amplesso con il diciamo che non si capisce bene. C'è comunque questa dimensione onirica, rimane il dubbio, rimane il mistero, appunto. E una volta concepito il figlio, la ragazza si trasfigura. Vi leggo anche a questo proposito alcuni versi. Maternità traboccava dal gesto, la sua mente era sgombra di pensieri. La scorza dura di cui si copriva celava un frutto più morbido e dolce. Sembrava non avere più paura. Aveva trasformato il suo dolore in luce, dignità, canto, bellezza. La forza del femminile è la forza di fare di tutto per, soprattutto, difendere, proteggere i figli. Forse anche per questo le donne, diceva prima, si adattano molto più velocemente a una nuova realtà, a un nuovo paese di approdo, perché hanno questa spinta verso il futuro fortissima. E Europa, nonostante tutte le violenze che ha subito nel bordello libanese, rimane miracolosamente vergine nella sua essenza, no? Ecco, le chiedo un po' di approfondire questo tema e di sottolineare anche che nel libro si parla, tra l'altro è un aedo cieco che a Mykonos la ribattezza, no, da Europa in Europa, ma la ribattezza ricordando l'età mitica in cui, nel matriarcato o in Gilania se volete, quindi dove non c'era ancora il patriarcato, l'oppressione maschile, la donna aveva un ruolo da regina, perché la maternità, la fecondità erano onorate come un attributo divino. Allora, sì, c'è questa scena che è abbastanza centrale, in cui la barca approda in un'isola, che tra l'altro è l'isola di Mykonos, che è un'isola profondamente sputtanata dal turismo, però loro riescono a evitare, diciamo, la ressa, e vanno nel cuore del paese, dove trovano un vecchio cieco, che chiaramente è una parodia di Omero, una parodia no, ma insomma è una metafora di Omero. E lui, questo cieco, mastica i nomi, si fa dire i nomi dei quattro più quello di lei, e quando sente il nome di lei le dice avvicinati, comincia, le tocca il profilo, le guance eccetera, e la riconosce, e cioè dice: posso toccare il tuo viso, ragazza? E allora la regina degli enigmi si inginocchiò davanti al venerabile, lasciò che deliziando percorresse con le dita rugose nuca, fronte, zigomi, mento, naso, orecchie, labbra, per poi sentirgli dire tra le lacrime: questo profilo di dura moneta e il naso che mi sembra appena uscito dal fregio di una coppa micenea, come potevo io non riconoscerlo? Tu, grandi occhi, tu, regina madre, tu ci ricordi ciò che siamo stati, figli di donna venuta dal mare. E a questo punto lei gli chiede: dimmi, parlami di questa tua terra, perché un toro mi insegue? E lui gli racconta: c'era una volta il popolo del mare, uomini e donne portati dal vento. Chiamavano arcipelago le isole. Quella di Creta era il centro, la scrofa dalle molte mammelle, profumata di cisto e di asfodelo. Viaggiatori, la loro vita era il cerchio di un periplo. Non avevano re, solo regine, rapitrici di maschi concubini. La loro dea era bianca e notturna, scandiva i mesi, bambola di grano, custode del mistero della vita. Qui si mostra un archetipo che è tipico del nostro meridione, cioè la simbiosi di oltretomba e di fertilità. Solo attraverso la morte c'è la rinascita, per cui nelle terre di Persefone abbiamo le più stupende celebrazioni della fertilità attraverso queste torri di grano che vengono portate altissime, che vengono portate dai villaggi del meridione d'Italia, no? E il vecchio racconta questo dominio femminile che è reale in realtà, che è avvenuto soprattutto nel mondo pelagico e a Creta. Ma poi arrivano i guerrieri del nord che invece instaurano il patriarcato. Ma tutto cambiò, fu scuro il cielo e vennero i padroni delle steppe da terraferma con spade di ferro, devoti al cerchio del carro solare, rapitori di femmine nel segno del toro. Con le armi sottomisero Selene e le signore della notte, ne presero i santuari con la forza, vi misero dei maschi, patriarchi, a spese di quel mondo di regine. E allora lei gli chiede: ma dove sono finiti adesso gli dèi? E lui risponde: tutto è finito, gli dèi sono in vendita, come un trancio di tonno o pesce spada, o come una mezzena di maiale. Negli occhi hanno monete le persone. L'aquila, il toro, il leone oggi sono imprigionati in tendoni da circo e l'anima dell'isola è scomparsa con la leggenda dell'ultimo re. E qui racconta la storia di un mitico pellicano che io ho conosciuto nell'isola di Mykonos, che in Grecia è un simbolo eucaristico, che è stato pescato in mare agonizzante, portato sull'isola e nutrito dai pescatori. Era diventato la mascotte dell'isola. E alla fine questo animale viene ucciso da turisti ubriachi e tutta l'isola va a piangere. Cioè, da quel momento il nostro Dio, il nostro re, è morto. E alla fine, nel momento in cui i quattro argonauti e lei si allontanano, il grande vecchio, no, dalla fronte bianca come una scogliera, le dice: cambia il tuo nome, non chiamarti più Europa, chiamati Europa, assaggia la dolcezza rinnovata delle tue sillabe. Nel nostro mondo da 1000 anni la EU porta bene, è messaggera di buona fortuna. Se dico Europa, vedo ciò che sei, anche se sono cieco, figlia mia. Vedo una madre fertile di vita, vedo la luna oltre l'arcipelago, vedo il principio di una stirpe nuova. Europa, il nome esplose tra di noi, fece rullare il tamburo dei cuori, risuonò come il corno di un ariete. Ciò che accadeva era già stato scritto. La portatrice del nome celeste abbracciò le ginocchia al patriarca che le passò le dita tra i capelli. Calò Taxidi, le disse, buon viaggio, ti lascio a Rapimu, ora davvero, a questi occhi hai ridato la luce, che tu sia benedetta tra le donne. E con un aspersorio di basilico la irrorò d'acqua fresca di sorgente. Cioè, di nuovo lei appare come una possibile Madonna che ha vissuto un'immacolata concezione e che si ritrova a essere il grande capostipite. Ci avviciniamo alla fine, poi ci sarà comunque spazio per le vostre domande, questa è la mia ultima. Al termine del viaggio, arrivati in Calabria, passati attraverso Scilla e Cariddi, lo stretto di Messina, la ragazza misteriosamente scompare, fugge e va verso il suo destino, lasciando i quattro argonauti affranti, pieni di nostalgia per la bellezza del sogno che hanno vissuto. E poi l'equipaggio si sfalda, in un certo senso hanno portato a termine la loro missione, ognuno torna alla sua vita, Petros si dirige verso Gibilterra, da solo, e si perdono le sue tracce, come un Ulisse che affronta il Finisterre, no? E di lui non si ha più notizia. Senza Europa farete naufragio, è una delle ultime frasi, una degli ultimi versi del libro. Avete dimenticato la grande madre. Ecco, le chiedo di spiegare il significato, ma più che il significato forse l'intuizione che sta dietro a questo finale, e poi lascerei spazio alle domande. Dunque, dopo il drammatico superamento dello stretto di Messina, dove rischiano di affondare perché neanche a motore riuscivano a superare la pressione congiunta della corrente e del vento, che era contraria, riescono però, proprio grazie al fatto che Europa chiama a raccolta tutto il femminile che lo circonda, persino dai musei, Le figure delle vecchie madri si mobilitano perché il vento torni a soffiare in modo favorevole, il fatto che lei passi per questo grande utero del Mediterraneo, perché così era chiamato dai romani Fretum, per arrivare oltre e deporre il suo frutto in una terra pacifica. Quando buttano l'ancora dopo questa durissima avventura, la mattina il capitano scopre che lei è scomparsa, che la piccola scialuppa di salvataggio era a terra, quindi lei se n'era andata volontariamente, e non riesce a capire che cosa è accaduto. Vede però... Si butta a nuoto, ancora vestito, si butta a nuoto per vedere il luogo dove lei era arrivata, finché si trova davanti a un ulivo a cui si avvinghiava un vecchio ulivo preso dalle nervature di una giovane vite. E si ricorda che un siciliano sotto l'Etna gli aveva detto... se volete fermarvi in un luogo senza correnti, andate in un luogo dove una giovane donna abbraccia un uomo anziano, una femmina giovane abbraccia un maschio anziano. E lì capisce che era quella la profezia. La vite abbraccia il vecchio ulivo, dando un'immagine di sintesi del Mediterraneo che maggiore non si può. E contemporaneamente si trova davanti a un altro simbolo, perché qui è pieno di simboli, povera traduzione tedesca. Quando grida alle montagne intorno, alle tetre montagne calabresi, urla l'assenza di questa donna e non capisce perché se n'è andata, gli risponde una tartaruga marina che esce dall'acqua e faticosamente arriva fino sulla sabbia asciutta e lì comincia a deporre le uova con gli occhi con le fessure, i baccelli degli occhi chiusi per la fatica. E lì capisce che il suo compito è finito e che lei era scesa per mettere, diciamo, in opera la sua maternità. E a quel punto si scatena una lite a bordo perché soprattutto uno di loro, il francese, l'ebreo francese, dice: potevate almeno risparmiarci tutta questa balla dell'amplesso insogno di Giove, tu te la sei scopata, dice il francese al capitano. Il capitano si incazza da morte perché non è vero. Poi ovviamente tutti e quattro si rendono conto di essere i protagonisti, i coprotagonisti di una grande storia scritta da un grande regista all'alba dei tempi, per cui si arrendono alla divinità di Europa, ma in realtà l'unica creatura che lì aveva capito che cosa accadeva era la barca stessa, perché la barca aveva vissuto nella sua lunga storia secolare, aveva vissuto un sacco di amori e anche di abbandoni e di litigi a bordo di questa barca, perché sapete, la barca è un luogo che unisce ma può anche creare litigi tremendi. Quindi la barca ha già capito tutto, lei non è fuggita, è semplicemente ritornata nella dimensione mitologica da cui è uscita soltanto per fare l'annunciazione di sé, no? E quindi si rende conto che lei è rifluita nell'eternità da cui proveniva. A questo punto, appunto, il gruppo si divide, si spacca, il capitano viaggia da solo, viaggia senza telefono, senza documenti, butta via tutto e lentamente si annulla, segretamente desiderando di ricongiungersi a lei, sempre in quello spazio mitico da cui lei era provenuta. E a questo punto c'è un... Nella parte finale della storia sono passati, diciamo, 10 anni, più di 10 anni da questo viaggio e il capitano non c'è più, il greco non c'è più, il turco non si sa più dove sia finito, l'ebreo francese pure, e il narratore, lo scriba cosiddetto, riceve una lettera, sono passati 10 anni, l'Unione Europea non esiste più, sono passati 10 anni e riceve una lettera dai figli di Petros che dicono: abbiamo ritrovato il relitto della barca e sopra abbiamo trovato una serie di cose che ci hanno fatto capire il viaggio di nostro padre. E tra le varie cose c'era un grande libro mastro dove lui aveva ridisegnato il portolano di Europa, trasformando ogni promontorio, ogni isola, ogni stretto in figure femminili, quindi Europa come donna. Solo in questo momento lo scriba capisce che la storia è finita, e allora, e qui mi piacerebbe chiudere, lui racconta, ricorda i suoi compagni di viaggio con parole colme di emozione. O Petros, tu che vai senza bagaglio, forse riposi assieme ai naufragati tra eliche, carene e fumaioli. Chissà se vedi i bambini del mare fluttuare tra fondali e superficie. Questa è un'allusione ai tanti bambini che sono morti in mare. Non fioriranno rose sul tuo tumulo. In Seemannschaft, da Bluen, K. Keine Rosen, c'è una vecchia canzone che mi cantava sempre mia nonna, sulla tomba del marinaio non fioriscono le rose. Seemannsgrab, sì. Maschera d'oro scenda sul tuo volto con barba di guerriero miceneo, periplo sia il tuo sonno marinaro e l'acqua ti ripeta le sue strofe con dolce andirivieni di risacca. E ora dove siete, amici miei? Tu, vecchio seduttore, occhi di gufo che non sei mai salito su un aereo, mio sognatore cinico dei mari, e tu, dolce gigante di Caucasia, che bestemmiavi in tedesco, cantavi in turco e avevi un'ombra di ciclope, persi anche voi nelle nebbie di Lete, noi quattro, noi felici, noi fratelli, noi abitanti di linee di faglia, apolidi incalliti fuori moda, forse anche un po' snob come la nostra alcova navigante d'altro secolo. C'era tra noi un circuito di sogni che ci legava ogni notte di più. E poi mi prende, lo sai, nostalgia di te, mia piccola donna indifesa, figlia di re in balia di un mondo duro. Scalza sopra i ciottoli rotondi di Kalymnos nel viola della sera. Che poco penso spesso so di te, figlia di Ester, di Nur, di Maria? Mai ti chiesi di quale fede fossi. Forse neanch'io lo volevo sapere per mantenere integro il mistero. Quello che so è che eri complicata come un'ebrea di stirpe sefardita, chiusa come una figlia dell'Islam, rompiscatole come una cristiana e affascinante, ahimè, come una donna. C'era un incendio dentro la tua tenebra, eri un enigma, una sfida alla mente, dea madre di cicloni e di delizie, miniera di dolcezze che negavi di avere. Oh, come rotola il tempo, ragazza. Guardo il vento, qui parla da Trieste, chiaramente, no? Qui c'è un accenno al mio mondo. Come rotola il tempo, ragazza. Guardo il vento infuriare tra le vele e penso a quando te ne sei andata. Eppure non mi chiedo dove stai, ma solo quanto ameresti il mio cielo. Io amerei, tu ameresti, essi amerebbero. La mia vita è prossima all'ormeggio ora. Il mio modo è il condizionale, non più l'indicativo. Sono certo che tu non ci sei mai appartenuta. Non eri di nessuno, ragazzina, e in noi non c'era ombra di possesso. Forse non era vero. Sono piuttosto io che ti appartengo. Sogno, lo sai, sovente la tua spalla con sopra quelle rose del deserto. Indelebile sei mentre discendi le scale verso il mare con guardinga lentezza giù dalle nevi del Libano, azzurre nel tramonto, con quell'ala nera e lucente che ti taglia il viso. E qui c'è gli ultimi sei versi sono un invito alla scrittura, veramente un consiglio poetico di enorme valore. Mi ripetevi sempre, perché scrivi continuamente su quel tuo taccuino? Per non dimenticare, rispondevo. E allora tu, va bene, ma rammenta, se vuoi che la memoria non si perda, lascia passare il vento tra le righe. Canto per Europa, un grande canto d'amore per questa nostra madre. E adesso tocca a voi, spero che vi facciate avanti perché sicuramente gli stimoli sono tanti, quindi chi rompe il ghiaccio? Prego. Vuole venire qui oppure le porto il microfono? No. Ce ne sono due, buonasera, le volevo fare intanto i complimenti, non ho ancora letto il suo testo, però mi ispira una cosa, mi auguro e credo che lei, profondo conoscitore del mondo greco, sia stato ispirato dallo spirito di Kazantzakis, perché è nell'impostazione del fatto che lei ha scritto il romanzo, cioè il testo, pardon, in versi, richiama l'Odissea di Kazantzakis. Ha fatto il viaggio al femminile, è bellissimo, credo, e per fortuna anch'io avrò un'amica che mi legge queste cose a voce alta, perché purtroppo ho grossi problemi, e così come mi ha letto tutta l'Odissea di Kazantzakis. Ed è stato un viaggio bellissimo, e per questo le dico che ho già ieri alla radio, ecco perché sono qui, ho sentito, io ho detto no, ci devo andare. La barca, i quattro, gli amici, i compagni di Ulisse, sono cinque con lui, quattro. Elena, nel viaggio che dalla Grecia arriva a Creta, mi ha già fatto pensare a quello che ritornerò a pensare sentendo il termine Europa. Poi, sinceramente, è dal 78 che in Grecia vado tutti gli anni, se le idee mi sono favorevoli una volta all'anno, altrimenti due, quindi rivivrò tutti i piccoli porti anche delle isole, che conosco abbastanza benino, usiamo il termine, perché non amo andare mai nei capoluoghi, ma preferisco andare nei piccoli porti, quindi credo che mi ritroverò. Ho avuto la gioia di conoscere il pelicano a Mykonos, chiaramente anch'io, e quindi sarà veramente una gioia, l'ho detto, rileggerlo. E poi ultimamente, adesso mi ha fatto venire in mente un'altra cosa, ti chiedo ancora 900 miglia di un suo concittadino, il libro, è stato un grande velista. Solo che non vorrei sbagliarmi il nome, non so se era Pontano, un cognome simile, perché l'ho letto tanti anni fa, ma mi aveva affascinato anche questo testo. E quindi le dico grazie per aver riportato il mondo greco e il valore del mondo greco ancora una volta come base del termine Europa. Grazie. Io direi raccogliamo ancora una domanda e poi la parola a Rumi. Grazie, la mia è brevissima. In questa sala vedo molte persone con i capelli bianchi e barbe bianche. Questo mi spaventa un pochino, perché mi chiedo se i giovani sono interessati all'Europa. Cioè, forse noi l'abbiamo vista nascere, abbiamo paura che si sgretoli. Che cosa ne pensano i giovani, secondo lei? Mi interesserebbe avere la sua opinione. È una domanda tosta, perché va molto al di là. Cioè, intanto io non sono un politico, però una cosa vorrei dire, che anche la grande generazione di Erasmus non è riuscita a passare alla generazione dopo il miracolo di ciò che ha vissuto. Cioè, purtroppo abbiamo vissuto la caduta dei confini e la libertà di viaggiare come qualcosa di dovuto, mentre così non è. Io ricordo che quando arrivai a Berlino la prima volta, e era appena stato instaurato l'euro e i tedeschi non lo mollavano tanto volentieri il loro marco, quando il tassista mi dice, non so, 15 euro, io non riuscivo a pagare, perché piangevo. Ci manca questo, cioè ci manca il... ma manca, è colpa della mia generazione, per questo ho scritto questo libro, per cercare di ricostituire lo stupore e il miracolo di ciò che viviamo, la coscienza di essere in un'isola di diritti e di pur discutibile di democrazia e di complessità di pensiero, l'ho parlato prima non a caso della Grecia, che non ha uguali. Cioè ci manca completamente il senso di vivere in una terra che è l'ultimo residuo di felicità nel mondo. Basta che ti giri, noi ci mandano nei paradisi turistici, no? Ma in realtà appena giri l'angolo scopri la miseria, scopri la dittatura, scopri la difficoltà di tornare a casa la sera senza pericolo, scopri il rischio di essere arrestato per una frase sbagliata e quindi ci manca questa sensazione, questa consapevolezza di essere frutto di un miracolo nato da una strage enorme. Manca completamente la narrazione di questo, quindi il problema dell'Europa è narrativo. Io perché vado volentieri nelle scuole? Perché è l'unico modo che ho di trovare platee senza capelli bianchi. Sì, e vedo che i ragazzi sentono, dopo 10 minuti si rendono conto, ma questo che parla ci crede. Perché è la prima cosa che ti chiedono i ragazzi, non devi barare. Quindi, ripeto, il problema dell'Europa in questo momento non è politico, non è finanziario, è un problema di coscienza di sé. È troppo facile oggi definirci attraverso l'esistenza del grande babau alle frontiere orientali, Putin, che è un pericolo enorme. Ma non possiamo limitarci a dire chi siamo perché abbiamo un nemico comune. Quando Scholz, Macron e Draghi sono andati col treno di notte a Kiev per portare la loro solidarietà a Zelensky, era una bellissima immagine che dava una bella illusione di unità. Ma in realtà è troppo facile definirsi così, perché c'è il nemico. Abbiamo proprio bisogno di una guerra per sapere chi siamo? No. No, per questo è importante raccontarsi e dire da dove veniamo, interrogarci su questo. Questo io lo dico ai ragazzi, lo dico anche ai miei nipotini, che hanno uno 8 e uno 10 anni, ma capiscono quando gli dico queste cose in termini più semplici. Capiscono al volo che se si ammalano in America l'ospedale gli costa 2.000 dollari al giorno se non hanno l'assicurazione. Capiscono che per i poveri la vita è molto più dura fuori dall'Europa che qui. E oggi purtroppo noi ci troviamo a respingere proprio coloro che sarebbero i nostri primi alleati. Coloro che fuggono da ciò che noi odiamo, da ciò che è il contrario del nostro modello, del nostro sogno. Potrei leggere una frase? Prego, magari al microfono così tutti sentono bene. Scusa, mi si sente anche senza microfono. Permetto di chiederlo perché ho fatto quello che lei suggeriva. Anch'io sono una che va in trance di notte e mentre ascoltavo ogni tanto i pensieri mi partivano e ho scritto una frase. Sarebbe, che è quello che mi porto via da qui. Sarebbe bello gustare la vita giovane con l'esperienza del vecchio. Quanto piacere, quanta passione in più, ma senza rimpianti, perché ogni tempo ha il suo senso. Aspettate, perché l'ho scritto anche in tedesco. Es wäre schön, das junge Leben mit der Erfahrung des Alters erfassen zu können. Welche Wonne, welche Leidenschaft, aber ohne Wehmut, denn jede Zeit hat ihren Sinn. Grande. Beh, la ringrazio enormemente, ma volevo anche rispondere all'accenno a Kazantzakis, che naturalmente ho letto, ma c'è una grande differenza tra il mio e il suo libro, non voglio mettermi assolutamente alla sua altezza. Il suo è un libro molto maschilista, mentre il mio è un libro profondamente rivolto alla supremazia femminile. C'è forse spazio ancora per una o due domande? Chiudiamo entro pochi minuti. Tu ami il femminile. Com'è nata questo che io considero è il tuo primo epopea, il tuo primo canto epico? Com'è nata la Cotogna di Istanbul? Che per me è meravigliosa. Sì. Allora, la Cotogna di Istanbul è nata dalla perdita di una persona cara, dalla perdita drammatica di una persona cara che ho molto amato, e scrivere è stata l'unica medicina. Io per uscire da questo lutto che si prolungava oltre la decenza, cercavo di raccontare questa storia senza coinvolgere persone reali, quindi facendo delle modifiche alla storia. Questo mi aiutava a superare la fase del lutto, anche perché condividevo questa storia con il pubblico, spesso raccontavo questa storia al pubblico e tutti mi dicevano scrivila questa storia, però io non riuscivo a scriverla perché non riuscivo mai ad arrivare alla comunicativa che riuscivo a esprimere oralmente, finché in un viaggio a Sarajevo con un piccolo aereo privato assieme al maestro Riccardo Muti, lui doveva andare a Sarajevo per presentare l'Eroica che avrebbe diretto di lì a qualche mese nel Teatro Nazionale. Durante quel viaggio, durante il viaggio di ritorno, gli raccontai la storia della Cotogna e lui si emozionò fortemente e mi disse: Paolo, questa è una ballata. E lì capii che dovevo scriverla in un modo completamente nuovo, che fosse il più orale possibile. E vi ricordai il ritmo dei racconti di mia nonna e quindi partii con l'idea dell'endecasillabo senza nessuna esperienza, quindi sbattendo contro il muro della metrica continuamente, però a un certo punto, quando la metrica si è impossessata di me, quando mi sono reso conto che il verso non è qualcosa che mette in prigione la lingua, non è qualcosa che la chiude in uno schema, che la mette in catene, ma al contrario è qualcosa che libera il ritmo nascosto da sempre nella parola, e da quel momento la storia è andata avanti e anche lì, come in questa storia qui, ho vissuto di notte e ho vissuto acchiappando, rubacchiando cose che completavano e rendevano più saporita la mia storia personale, quindi arricchendola con cose nuove. Quindi sono due procedimenti simili, caratteristiche del verso. Però il verso mi abitava già. Per esempio, io non mi ero reso conto che la leggenda dei Monti Naviganti aveva come titolo un endeca, ma mi venne spontaneo. Tre accenti, tre dittonghi, ma non lo sapevo, l'ho scoperto solo dopo. Non vedo altre mani alzate. Ci salutiamo qui. Ringraziamo moltissimo Paolo Rumiz per averci raccontato dal cuore come nasce la sua ispirazione. E cerchiamo di amare un po' di più la nostra Europa. Ci sono i libri e credo che Paolo Rumiz sia disponibile anche a firmare le copie per chi lo desidera. Grazie a tutti, è stata una bella serata. Grazie.